Lettera inviata a Trento dalla città pontificia di Bologna, indirizzata a Gian Pietro Carafa, membro del Concilio Ecumenico, datata 27 luglio 1546. Al mio Signore Reverendissimo Giovanni Pietro Carafa. Signore mio onorandissimo, le notizie giunte a Bologna da Trento in questi mesi non possono che rallegrare questo cuore zelante. Non soltanto, infatti, l'imperatore ha visto sfumare le proprie speranze che i luterani prendessero parte al concilio, ma ha dovuto assistere anche alla definitiva condanna della teologia dei protestanti, della dottrina sul peccato originale e della giustificazione per sola fede. A tutt'oggi, i principi protestanti della Lega di Smalcalda, sua avversaria, devono essere considerati apostati e nemici della religione. E così si vanificano le speranze di Carlo di riprendere il controllo dell'intera Germania e di portare i principi tedeschi dalla sua parte contro il turco. Gli sforzi del cardinale Polo contro i decreti conciliari che sanciscono la separazione definitiva dei luterani da Santa Romana Chiesa sono risultati vani e questa è forse la maggior vittoria di Vossignoria e del partito degli zelanti. Vengo infatti a confermare alla Signoria vostra che i motivi di salute addotti dal cardinale inglese per l'abbandono prematuro dei lavori conciliari non sono altro che una scusa. La sua ritirata è dettata dalla necessità di tornare a Viterbo per leccarsi le ferite, piuttosto che dalle febbri alpine. Ma i lunghi anni al servizio della Signoria vostra insegnano che non si deve cantar vittoria prima che il nemico sia sconfitto del tutto. Reginaldo Polo resta il preferito dell'imperatore, l'uomo su cui l'Asburgo ripone le speranze in un cambiamento di rotta nei confronti dei protestanti, e non vi è dubbio che egli indirizzerà i suoi intrighi sull'agevolazione della carriera e della fama dell'inglese. Per questo, la scomunica del beneficio di Cristo da parte dei padri conciliari fornisce alla Signoria vostra un'arma in più per incrinare le strategie sotterranee degli spirituali e dei simpatizzanti di Calvino entro i territori papali. L'intenzione annunciatami dalla Signoria vostra di far lavorare la Congregazione del Santo Uffizio alla stesura di un indice dei libri proibiti diventa oggi un'esigenza primaria. Il pericoloso libercolo di Benedetto da Mantova, infatti, ha continuato a circolare e a fecondare le menti predisposte all'eresia, al punto che oggi potrebbe essere sufficiente scovare chi lo possiede per individuare i simpatizzanti del Polo e metterli sotto accusa. Molti nomi sarei già in grado di fornirli io stesso all'Inquisizione. Ma tant'è. Oggi forse è sufficiente gioire delle vittorie immediate e attendere di valutare il da farsi quando questo entusiasmo si sarà placato, lasciando posto alla saggezza. Raccomandandomi alla grazia di Vostra Signoria e in attesa di nuove direttive, bacio le mani. Di Bologna, il giorno 27 di luglio 1546, il vostro fedele osservatore, Q.